Ad alta voce, Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. Ovunque i villaggi erano in fermento, non solo per le conseguenze elettrizzanti del decreto sulla terra, ma anche per il ritorno di migliaia di contadini che portavano dal fronte lo slancio rivoluzionario. Questi uomini salutarono con entusiasmo particolare la convocazione del congresso contadino. Atteggiandosi a vecchio gic verso il secondo congresso dei soviet degli operai e dei soldati, il comitato esecutivo dei soviet contadini tentò di impedire la riunione del congresso contadino convocato a Smolny, ma quando vide che il suo tentativo era destinato al fallimento, spedì ovunque telegrammi furiosi che ordinavano l'elezione di delegati conservatori. Diffuse perfino la voce che il congresso si sarebbe tenuto a Mogiliov e alcuni delegati contadini vi credettero. Ciò nonostante, il 23 novembre circa 400 rappresentanti raggiunsero Pietrogrado ed ebbero inizio le riunioni preliminari dei partiti. La prima seduta ebbe luogo nella sala Aleksandre della Duma. L'esito del primo voto confermò che oltre la metà dei delegati appartenevano alla sinistra socialista rivoluzionaria, un quinto ai bolscevichi e un quarto alla destra socialista rivoluzionaria. Il resto era unito unicamente da una comune ostilità verso il vecchio comitato esecutivo. La grande sala affollata vibrava di un perenne clamore. I delegati erano divisi in gruppi avversi da una ostilità profonda e tenace. Il 27 cominciò la discussione sulla questione agraria, la quale mise in luce le differenze che separavano il programma bolscevico da quello dei socialisti di sinistra. A nome di questi ultimi, Kolchinsky tracciò la storia della questione agraria nel corso della rivoluzione. Dopo Kolchinsky prese la parola Lenin, ascoltato ora con grande intensità. In questo momento tentiamo di risolvere non solo la questione della terra, ma tutto il problema della rivoluzione sociale, non solo in Russia, bensì nel mondo intero. Il problema agrario non può essere risolto indipendentemente dagli altri problemi della rivoluzione. Per esempio, la confisca delle terre incontra non solo la resistenza degli agrari, ma anche dei capitalisti stranieri, ai quali le grandi proprietà fondiarie sono legate attraverso le banche. Il possesso della terra in Russia ha generato uno sfruttamento spaventoso e la confisca della terra da parte dei contadini è l'atto più importante della nostra rivoluzione, che, come dimostrano le tappe fino a oggi percorse, non può essere separato dagli altri. La prima di queste tappe è stata l'annientamento dell'autocrazia e del potere capitalista, dell'industria e dei latifondi, i cui interessi erano strettamente legati. La seconda è stata il consolidamento dei soviet e la conclusione di un compromesso politico con la borghesia. L'errore dei socialisti rivoluzionari di sinistra è di non essersi opposti al compromesso perché essi non credevano che la coscienza delle masse fosse sufficientemente sviluppata in realtà. Se il socialismo non dovesse realizzarsi, se non quando tutti, senza alcuna eccezione, avranno raggiunto lo sviluppo sufficiente, noi non vedremo il socialismo per altri 500 anni. Il partito politico socialista è l'avanguardia della classe operaia, la carenza di educazione delle masse. Non dovrebbe arrestarlo, bensì indurlo a trascinarle dietro di sé, servendosi dei soviet come strumenti della sua iniziativa rivoluzionaria. Ma per guidare coloro esitanti è necessario che i compagni socialisti rivoluzionari di sinistra cessino essi stessi di esitare. Già dallo scorso luglio le relazioni tra le masse popolari e i conciliatori cominciarono a spezzarsi, eppure ancora oggi, in novembre, la sinistra socialista rivoluzionaria tende la mano ad Avaksentiev, il quale continua a tentare di raggirare il popolo. Se questo compromesso non avrà fine, sarà la rovina della rivoluzione. Non è possibile alcun accordo con la borghesia, i cui poteri devono essere annientati in modo definitivo. Noi bolscevichi non abbiamo modificato il nostro programma agrario, né ci siamo rimangiati l'abolizione della proprietà della terra. Abbiamo adottato i regolamenti dei comitati agrari, che non sono affatto basati sulla proprietà privata, solo perché ci sforziamo di eseguire la volontà popolare, così da rendere più stretta la coesione tra tutti gli elementi che lottano per la rivoluzione sociale. Invitiamo i socialisti rivoluzionari di sinistra a entrare nella coalizione, ma insistiamo perché essi cessino di guardare indietro e interrompano ogni rapporto con i conciliatori esistenti nel loro stesso partito. Per quanto riguarda l'Assemblea Costituente, è vero, come ha detto l'oratore precedente, che il risultato dei suoi lavori dipenderà dalla pressione rivoluzionaria esercitata dalle masse. Io aggiungo, abbiate fiducia in questa pressione rivoluzionaria, ma non dimenticate il vostro fucile. Nel tardo pomeriggio di giovedì 29 novembre, il congresso si riunì in seduta straordinaria. La più profonda allegria e serenità regnava sulla sala. Liquidate rapidamente le questioni più urgenti, Nathanson, membro anziano della sinistra socialista rivoluzionaria, dalla barba bianca alla voce tremula e le lacrime agli occhi, diede lettura del patto di unione dei soviet contadini con i soviet degli operai e dei soldati. Ogni volta che la parola «unione» veniva pronunciata, scoppiavano applausi frenetici. Verso la fine, Ustinov annunciò l'arrivo di una delegazione di Smolny, accompagnata da rappresentanti dell'esercito rosso. Una entusiastica ovazione accolse la notizia. Uno dopo l'altro, un operaio, un soldato e un marinaio salirono sulla tribuna per salutare il congresso. Prese quindi la parola Boris Rheinstein, del Partito Operaio Socialista Americano. Il giorno dell'unione del congresso dei contadini con i soviet, dei deputati operai e soldati, è uno dei momenti più significativi della rivoluzione. Clamorosa sarà l'eco che esso avrà nel mondo intero, a Parigi, a Londra, a New York. Questa unione rallegrerà i cuori di tutti i lavoratori. Una grande idea ha trionfato. L'Occidente e l'America attendevano dal proletariato russo qualche cosa di grandioso. Il proletariato del mondo agli occhi rivolti verso la nostra rivoluzione. Sverdlov, presidente dello SGIC, venne anch'egli a salutare il congresso. Infine i contadini, al grido di «Viva la fine della guerra civile» e «Viva la democrazia unita», lasciarono l'edificio. L'oscurità gravava sulle strade e la pallida luce lunare si rifletteva sulla neve gelata. Sulla riva del canale, in assetto da marcia, era allineato il reggimento Pavlovsky, la cui banda intonava la Marsigliese. Fra le acclamazioni commosse dei soldati, i contadini, improvvisato un corteo, innalzarono la grande bandiera rossa del comitato esecutivo del soviet contadino pan-russo, sulla quale era appena stata ricamata in lettere d'oro la scritta «Viva l'unione delle masse lavoratrici rivoluzionarie». Altre bandiere seguivano. quella dei soviet dei quartieri, quella delle officine Putilov, con la scritta «Ci inchiniamo davanti a questa bandiera per creare la fratellanza di tutti i popoli». Molte torce si accesero inframmezzando la notte di luci rossastre riflesse dai mille cristalli di ghiaccio. I loro strascichi fumosi circondavano il corteo che avanzava cantando tra una moltitudine stupita e silente. «Viva l'esercito rivoluzionario! Viva la Guardia Rossa! Viva i contadini!» L'immenso corteo percorse la città, ingrossandosi come un fiume in piena lungo la via e innalzando nuove bandiere rosse con lettere d'oro. Due anziani contadini, ingobbiti dal lavoro, marciavano a braccetto, i volti rapiti in un'estasi infantile. «Ebbene», disse il primo, «vorrei proprio vederli venire a riprenderci la terra, adesso». Vicino a Smolny, la Guardia Rossa, allineata da entrambi i lati della strada, trasmetteva altrettanta emozione. L'altra figura vetusta rispose al compagno: «Non mi sento stanco. Mi pare di aver percorso in volo tutta questa strada». Sulla scalinata di Smolny, un centinaio di deputati operai e soldati con le loro bandiere spiccavano nella luce che fuoriusciva tra le arcate. D'un tratto si precipitarono verso i contadini serrandoseli ai petti. Infine il corteo, oltrepassata la grande entrata, salì gli scalini con passi tonanti. Nella grande sala bianca, lo Zhik attendeva, con il soviet di Pietrogrado al completo e un migliaio di spettatori, nell'atmosfera solenne che accompagna i grandi momenti della storia. Zinoviev annunciò la conclusione dell'accordo con il congresso contadino, fra la rumorosa approvazione dei presenti che divenne tempestosa, quando la musica risuonò nei corridoi e l'avanguardia del corteo penetrò nella sala. La presidenza si alzò per cedere il proprio posto sul palco alla presidenza del congresso contadino. I diversi membri si abbracciarono e sul muro dietro ad essi, sotto la cornice ormai vuota che un tempo conteneva il ritratto dello zar, le due bandiere furono incrociate. Poi fu aperta la seduta. Dopo alcune parole di benvenuto pronunciate da Sverdlov, Maria Spiridonova, magra, il volto esangue, gli occhiali e i capelli raccolti, salì alla tribuna. Questa donna, la più amata e potente della Russia, rassembrava nell'aspetto una maestra della Nuova Inghilterra. «Davanti agli operai della Russia si aprono orizzonti che la storia non ha mai conosciuto. Tutti i movimenti operai del passato si sono conclusi con la sconfitta, ma quello attuale è un movimento internazionale, dunque invincibile. Non vi è forza al mondo che potrà spegnere la fiamma della rivoluzione. Il vecchio mondo crolla, il nuovo comincia». Dopo la Spiridonova parlò Trotsky, animato dalla passione. «Vi do il benvenuto, compagni contadini. Voi non siete invitati, ma padroni di questa dimora dove batte il cuore della rivoluzione, la volontà di milioni di lavoratori è ora concentrata in questa sala. La Russia non conosce ormai che un solo padrone, la grande unione degli operai, dei soldati e dei contadini». Poi, in tono sarcastico, parlò dei diplomatici alleati ancora sdegnosi della proposta russa di armistizio accettata dalle potenze centrali. «Oggi nasce un'umanità nuova. In questa sala giuriamo ai lavoratori di tutti i paesi di bandire ogni debolezza e rimanere al nostro posto rivoluzionario. Se soccomberemo, lo faremo difendendo la nostra bandiera». Thank you. Krylenko espose poi la situazione sul fronte dove Dukhonin preparava la resistenza contro il consiglio dei commissari del popolo. Che lui e i suoi complici sappiano che non avremo alcuna pietà verso coloro che vogliono sbarrare la strada della pace. Dybenko salutò l'assemblea a nome della flotta e Krushinsky, membro del Vikiel, dichiarò: adesso che l'unione di tutti i veri socialisti è realizzata, l'esercito intero dei ferrovieri si mette agli ordini della democrazia rivoluzionaria. Seguì Lunacharsky con le lacrime agli occhi. Proshan, che parlò a nome della sinistra socialista rivoluzionaria, e infine Saakashvili, che a nome del gruppo degli internazionalisti socialdemocratici, formato dai membri dei gruppi di Martov e Gorky, dichiarò: abbiamo lasciato lo Zhik a causa della politica intransigente dei bolscevichi e per obbligarli alle concessioni necessarie per realizzare l'unione di tutta la democrazia rivoluzionaria. Adesso che essa è stata ottenuta, riteniamo nostro dovere riprendere i nostri posti nello Zhik. Dichiariamo inoltre che tutti quelli che hanno abbandonato lo Zhik debbano tornarvi. Shtakov, contadino anziano e membro venerando della presidenza del congresso contadino, inchinatosi verso i quattro angoli della sala, disse: rivolgo a voi il saluto che si porge in occasione del battesimo, giacché la Russia e la sua libertà nascono a nuova vita. Tutti lasciarono parlare i propri cuori con l'eloquenza delle speranze finalmente soddisfatte. Quella notte, a tarda ora, fu votata all'unanimità la risoluzione seguente. Il Comitato Centrale Esecutivo Pan-Russo dei Soviet degli Operai e dei Soldati, il Soviet di Pietrogrado e il Congresso Straordinario Pan-Russo dei Contadini ratificano i decreti sulla terra e sulla pace, adottati dal Secondo Congresso dei Soviet dei DOS, e così pure il decreto sul controllo operaio, adottato dal Comitato Centrale Esecutivo Pan-Russo. Le assemblee riunite dello JIC e del Congresso Contadino Pan-Russo esprimono la loro ferma convinzione che l'unione degli operai, dei soldati e dei contadini, questa unione fraterna di tutti i lavoratori e di tutti gli sfruttati, consoliderà il potere conquistato e prenderà tutti i provvedimenti rivoluzionari necessari per velocizzare il passaggio del potere nelle mani dei lavoratori anche negli altri paesi, assicurando così una vittoria duratura alla causa della pace giusta e del socialismo.